Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Homage to the Buddha, the Blessed, Noble, and Fully Self-Enlightened One. Omaggio al Buddha, al Nobile, al Beato, e al pienamente autoilluminato. So we shall continue with our exploration of dependent origination. Quindi continueremo stasera con la nostra esplorazione riguardo alla originazione interdipendenze. Recap on where we are. Quindi ricapitoliamo un po' dove siamo arrivati. We were saying that the fundamental position is one of not knowing. Quindi abbiamo detto che la posizione fondamentale, diciamo iniziale, è quella del non conoscere. And then we make a mistake. E poi allora in virtù di questo facciamo un errore, commettiamo un errore. This mistake is not culpable. Però questo errore non è, come dire, una nostra colpa. Non siamo colpevoli di questo errore. It's one which one can understand as natural to coming into this world. Si può intendere come qualcosa che sorge in maniera naturale quando si entra in questo mondo. It's quite easy to see that we presume ourselves to be, in that ultimate sense, human beings. Quindi è facile vedere come noi ci consideriamo, in senso ultimo, degli esseri umani. Conventionally, of course, we are human beings. Ovviamente sul piano convenzionale noi siamo degli esseri umani. Sì, we're not apes. Non siamo delle scimmie. So from this basic mistake we form a relationship with the world and with ourselves. Quindi sulla base di questo errore di base noi formuliamo una relazione con il mondo e anche con noi stessi. And this relationship is one of acquisitiveness, aversion and fear. E questa relazione è una relazione di accumulazione, avversione e paura. And through these three attitudes we have created our unwholesome habits. Ed è attraverso queste tre relazioni o queste tre abitudini errate che noi creiamo le abitudini non salutari. Scusate, attraverso questi tre atteggiamenti che creiamo le nostre abitudini non salutari. So this is the first part of the Paticcasamuppada, avidya, paccaya, sankhara. Dependent on this ignorance, this not knowing, these habits are created. E quindi questo si riferisce alla primissimo anello del Paticcasamuppada, cioè in dipendenza da questo non conoscere, noi formiamo queste abitudini non salutari. Avidya, paccaya, sankhara. Avidya, paccaya, sankhara. These dependent. Now, the word paccaya means main dependency. Quindi questa parola paccaya, che collega le varie parti, significa la principale dipendenza. Yes. Diciamo. Yes, the principal dependence, right? There are other factors that bring about these sankharas. Perché ci sono degli altri fattori che fanno sorgere questi sankhara. Such as the society we live in. Per esempio la società in cui viviamo. But these are just feeding into the sankhara, the main cause is this not knowing? Ma questo è come se alimentassero, diciamo, i sankhara, ma la causa principale è proprio questa del non conoscere, questa avijja. It's because of these sankhara, or dependent on these sankhara, this act of cognition arises. Quindi in dipendenza da questi sankhara sorge questo atto di cognizione. I think we have to make a little distinction between dependent on and because of. Dobbiamo fare una distinzione tra questa indipendenza da e a causa di. Yeah. Because the act of cognition is also dependent upon the physical brain. Perché quest'atto di cognizione è anche dipendente dal cervello fisico. Ah, sì. So it's dependent on the main cause for cognition to arise is these habits. Quindi la principale causa finché nascano, sorga la cognizione sono proprio queste abitudini, sankhara. And these habits will not appear unless there is cognition. E queste abitudini non appariranno a meno che non ci sia la cognizione. So you can see one is dependent on the other, but at first it's the sankharas which come first and then the cognition. Quindi vedete come ognuno è dipendente uno dall'altro, sono interdipendenti, però nell'ordine vengono prima i sankhara e poi la cognizione. Mm. When Ananda is walking with the Buddha, he's walking with the Buddha. Quindi dice, immaginate Ananda che cammina con il Buddha. And he's been with the Buddha for many years, 20 years maybe. If I remember rightly, it's towards the end of his life. Quindi lui è stato col Buddha per una ventina d'anni, quindi è alla fine della vita del Buddha. And he's meditated and he's heard the Buddha talk about this so many times. E lui quindi ha meditato molto, ha sentito tante volte il Buddha parlare di questo Paticcasamuppada. And he says to the Buddha, you know, Lord, I think I really grasp this dependent origination teaching. Allora a un certo punto dice, sapete Signore, io credo di aver capito, aver afferrato finalmente questo insegnamento della originazione interdipendente. And the Buddha says, oh no, Ananda. E Buddha dice, no, Ananda. This is subtle, this is deep. Questo è molto sottile, molto profondo. So, we are only skimming the surface. Quindi è come se noi stessimo semplicemente, come dire, scremando la superficie. Dependent on this cognition, the body and mind arise. Quindi in dipendenza da questa cognizione sorgono la mente e il corpo. In other words, without cognition you don't see the body and mind. In altre parole, senza questa cognizione non vedreste il corpo e la mente. But this cognition is dependent on the body and mind for its arising. Ma questa cognizione dipende dal corpo e dalla mente perché possa sorgere. So that's why the Buddha talks about them being like two sheaves of hay leaning against each other. Buddha ne parla come questi due covoni, abbiamo detto, fascine forse, di paglia, di fieno che si appoggiano uno all'altro. Mm. And he says it doesn't go beyond this. E lui dice non va oltre questo. Yeah, this is the end of that of the process of cognition. In other words, what we are experiencing all the time is whatever is coming from the body and mind and the act of cognizing it. Quindi in altre parole tutto ciò che noi esperiamo deriva da questa relazione tra il corpo e la mente e la cognizione che conosce l'oggetto che è. That's why I say, you know, when you're in meditation don't try and get behind consciousness. Per quello vi dico, quando siete in meditazione non cercate di andare, come dire, di mettervi dietro la consapevolezza, cognition. Dietro la cognizione. No. What is on cognition is being offered, there's nothing else. Perché non c'è nient'altro se non quello che viene offerto proprio dalla cognizione. No. You can't know anything except what is in the act of cognition. che non potete sapere nulla che non sia all'interno di questo atto di cognizione. Mm. It's like, for instance, it's like a mirror. If your whole vision of life was looking into the mirror, then that's all you would ever be able to see, what's in the mirror. Quindi è come uno specchio, se tutta la vostra visione del mondo era chiusa in questo specchio, quindi tutto quello che voi potete conoscere è lì dentro. Mm. And dependent on the body and mind, we have the six senses. That's pretty straightforward. Sulla indipendenza da queste, da questo corpo mento, abbiamo i sei sensi, e questo è abbastanza diretto, logico. Mm. Yeah. And dependent upon the six senses, we have contact. E sulla indipendenza da questi sei sensi abbiamo il contatto. Mm. Now, on the point of contact, there must be three parts. E quindi questo contatto è composto di tre parti. Mm. There must be an object. È necessario che ci sia un oggetto. Huh? There must be the subject, cognition. Ci deve essere il soggetto, cioè la cognizione. And there must be the contact. E ci deve essere un contatto. Which is the physical base of the sense base, che corrisponde alla base fisica dei sensi. Mm. So the retina, I see the object. I see the object. There's the cognition, and through my sense base, the eye. Quindi c'è la retina che vede l'oggetto attraverso la cognizione, diciamo, e il contatto avviene attraverso l'occhio. Now, in our meditation, when we go to the feeling, to the texture of a sensation or of an emotion, the texture of it, we're at this point of contact. Quindi nella nostra meditazione, quando sentiamo, percepiamo una sensazione fisica o just a physical emotional, oppure anche emotiva, ne sentiamo proprio, come dire, il tessuto, ecco, entriamo proprio in... Allora siamo a questo punto del processo. In contact. Questo sì, si parla del contatto. Sì. And the texture è proprio la trama, si direbbe, no, di un tessuto. I'll give an example. So dependent on this contact, vedana arises. Quindi in dipendenza da questo contatto sorge vedana. Mm. And at the point of vedana, we begin to experience the world as either pleasant or unpleasant. Ed è a questo punto di vedana che noi cominciamo a fare esperienza del mondo come piacevole, spiacevole o neutro. Ah. So remember the example of pain in the knee. Ricordate l'esempio del dolore al ginocchio. While we experience it as pain, we're at vedana. Quando cominciamo a esperirlo come dolore, allora siamo già a vedana. Mm, but when we go into the pain and feel only heat or pressure, then we're at contact. Ma quando entriamo nel dolore e vediamo solo il calore o la pressione, allora siamo nel contatto. Mm. So when it gets to vedana, it takes on a value according to the pleasure that we experience. Quindi quando diventa vedana è come se assumesse un valore sulla base della piacevolezza o della spiacevolezza che presenta. So this is where we got to yesterday. E quindi ieri siamo arrivati qua. Now, if you can imagine, there is this experience of the body and mind, the six senses, contact, pleasant feeling. Quindi immaginatevi appunto questa esperienza del corpo, mente, yeah, il contatto, consciousness, cognition. Prima allora corpo, mente, poi la cognizione, sì, body and mind. Body and mind, corpo e mente, sei sensi, contact. E contatto. And this vedana, pleasant. E a quel punto c'è vedana, un vedana piacevole. All this happens in one consciousness. Quindi tutto questo accade in una coscienza. Yes, one consciousness. When I say, I've got to be careful here, it's a sequence of consciousnesses and we arrive at vedana. Quindi è in realtà una sequenza di coscienze e noi arriviamo a vedana. The contact and vedana are two points of consciousness. Perché il contatto e vedana sono due punti della coscienza, now, di coscienza. Sì. Now, running underneath, remember, are these habits and the mistake, the delusion. Quindi ricordate che sotto scorrono queste abitudini e questo errore, questa illusione. But it's as we come to a point of pleasure, something arises from these habits. Ma quando arriviamo a un punto in cui sentiamo il piacere, diciamo, qualcosa sorge da questo flusso di abitudini. So dependent on this pleasant feeling, this sankhara arises. Quindi in dipendenza da questa sensazione piacevole sorge il sankhara. In other words, somebody has pressed the button. In altre parole, come se qualcuno avesse premuto un bottone. Sì. So I am walking down the street, you see, and I smell coffee, and my nose is moving this way. Quindi vado, cammino giù per la strada, sento un profumo di caffè e il mio naso si gira in quella direzione. What is taking it this way is tanha. Ciò che lo sta facendo girare in quella direzione è tanha. No, tanha is translated in English as craving. Allora, sì, tanha è in inglese craving, è un po' la brama o il desiderio, si potrebbe sì, dire desiderio. In italiano. Yes, but it's a desire which is unwholesome. Però un desiderio non salutare. In the Pali language, this word tanha means only unwholesome desire. Questa parola Pali, tanha, è, appunto significa solo un desiderio non salutare. There is another word for desire, chanda. Perché c'è un'altra parola per desiderio che è chanda, which can be either wholesome or unwholesome. E questo può essere sia salutare che non salutare. But this word is it has a specific meaning. Ma qui tanha ha questo significato specifico, più una voglia sarebbe, no? Now the important thing to understand here is that as desire arises, there is no action. Cosa importante da su cui insomma, da riconoscere qui è che quando sorge tanha o il desiderio non c'è un'azione. I'm now thinking perhaps of certain conditionings that we might have had from our past, from our upbringing. Qui sto pensando per esempio dei condizionamenti che possiamo aver ereditato dalla nostra educazione. And many of you here, and I myself, were brought up as Christians, specifically Catholics. Molti di voi qui probabilmente, come io stesso, siete cresciuti in un ambiente cristiano, probabilmente cattolico. And I don't know about you, but my general understanding was that when something evil came into my mind, then I ought to have guilt. Non so voi, I should ma feel io, bad about it. Avevo questa idea che quando qualcosa di cattivo, di malvagio, di peccaminoso entrava nella mia mente, mi sentivo in colpa, stavo male per questa cosa. Now, in Buddhist understanding, there's no need to feel guilt at this moment. Secondo il buddismo non c'è alcun bisogno di sentirsi in colpa in questo momento. This is coming from a past habit. Che questo deriva da un'abitudine passata. And it is what we call a vipaka, which means a result of past action. E si chiama in Pali vipaka, cioè è un risultante, si dice, o un risultato, insomma, di un'azione passata. It is not yet an act of karma, it's not karma. Non è ancora un atto di karma, non costituisce ancora il karma. So now this is why it is so important for our mindfulness to know when an intention arises. Ed è per questo che è così importante che la nostra mente riconosca quando un'intenzione diventa un'azione. Because if we can see this intention arises, intention arising, then we have the mindfulness and the time to recognize it. Perché quando vediamo, appunto, siamo consapevoli del sorgere dell'intenzione, abbiamo la consapevolezza e il tempo per riconoscerlo, appunto. If I see an intention arising which is unwholesome and allow it to pass away, quindi se vedo che nasce l'intenzione ed è non salutare e gli permetto di andarsene, two things happen. Succedono due cose. Or should I say, yes. One is that I don't reinforce this habit coming up from the sankhara. Quindi da un lato io non rinforzo questa abitudine che viene su dai sankhara. And every time one of these desires arises, it's drawing energy from that habit. E ogni volta che sorge uno di questi desideri è come se risucchiasse energia da quell'abitudine. So if I want to get rid of a habit such as eating too much, which is very regular. Se io voglio, per esempio, sbarazzarmi di un'abitudine come mangiare troppo, per esempio. All I have to do is every time I feel that desire to overeat or to have that biscuit. È che ogni volta che io sento questo desiderio di mangiare di più o di avere quel biscotto, All I have to do is feel the desire and wait for it to pass away. Tutto quello che devo fare è sentire questo desiderio e aspettare che passi. And if I do that often enough, this fundamental, this habit becomes less and less and less and less. E se lo faccio abbastanza spesso, allora questa abitudine fondamentale che sta alla base diminuisce sempre di più. Now we have to be careful. E qui dobbiamo stare attenti. Because we can get to the point of thinking that the habit has now gone. Perché possiamo arrivare al punto di pensare che adesso l'abitudine se n'è andata. Or worse, we can control it. O, peggio ancora, possiamo pensare di poterla controllare. Because of this essential mistake about my relationship to the world. Per via di questo errore fondamentale che riguarda la mia relazione col mondo. This sense of a self. Questo senso di un sé. I'm always feeling, I shall always feel a certain lack, a certain emptiness about life. Avrò sempre questa sensazione di una mancanza, di un vuoto nella vita. This self can never be fully satisfied. Che questo sé non sarà mai completamente, pienamente soddisfatto. And this self knows it's unreal because it knows it's going to die. E questo sé sa di non essere reale perché non essere vero perché sa che dovrà morire. So. This self, when it gets upset, when it gets anxious, quindi questo sé quando diventa ansioso, agitato o disturbato, especially under severe stress, soprattutto quando siamo sotto un grave stress, uno stress pesante, diciamo, yes, it will seek an escape in pleasure. Cercherà di scappare. No? Cercherà una via di fuga nel piacere. And it will seek the old places where it had a good time. E andrà a cercare proprio in quei luoghi dove si era divertito, dove aveva avuto dei situazioni piacevoli. Sex, drugs and rock and roll. Sesso, droga e rock and roll. Take for instance somebody, you know, I mean, I know of a case which is very tragic. Io conosco un caso molto tragico. So he was an alcoholic in his early life, 20s. Quindi era un alcolista quando aveva più o meno 20 anni, era giovane. Yes, and through the you know the 12 step program he overcomes. E poi ha fatto questo programma dei 12 passi. Dice così, questo degli alcolisti anonimi, ed è riuscito a superare il problema. All his working life, he never goes anywhere near alcohol. E quindi per tutta la sua vita lavorativa non si è mai avvicinato all'alcol. And he retires at the age of 65. All'età di 65 anni va in pensione. So, surely this is a time when he can have a little drink. E quindi questo sicuramente è un momento, è un'età in cui può concedersi qualche bevuta. He's dead in 5 years. Dopo 5 anni è morto. So even though a habit we've been working with seems to have gone, we seem to have control, we always have to remain vigilant. Quindi anche se è un'abitudine che pensiamo di aver superato, crediamo di essere in controllo, però dobbiamo sempre rimanere vigili. The Buddha's last two words, appamado sampadeta, strive on with vigilance, diligence. Queste sono le ultime parole del Buddha, e cioè andate avanti con, cioè, diligentemente, lavorate diligentemente. So this point between vedana and tanha is the escape. Quindi è proprio questo punto tra vedana e tanha, la via di fuga, diciamo. Yeah, this is the escape through dukkha. Ed è la via di fuga attraverso dukkha. Mm. And that's why the meditation always points you to this particular point in to this particular moment in your experience. Ed è per questo che la meditazione vi indica questo particolare momento nell'esperienza. Now, if we fail, allora, se falliamo, then we have upadana. Allora abbiamo upadana. Yeah. So we have these are moments of consciousness, you see. Questi sono tutti momenti di coscienza. We have contact, we have vedana, we have tanha. Poi arriva tanha. And then we have upadana. E poi c'è l'upadana. Now, upadana is the point where you identify with the desire. Allora, upadana è il momento, il punto in cui ci si identifica con il desiderio. Ah. So, although we say, I want ice cream, psychologically it's the other way around. Quindi anche se noi diciamo io voglio del gelato, psicologicamente però è il contrario. Ice cream want I. Sì. Il gelato vuole me. Sì. And that point of grasping is, there's a lovely image the Buddha uses of fire. Quindi c'è questo momento appunto del voler afferrare, e il Buddha utilizza un'immagine, una metafora del fuoco. Mm. Now again we have to understand the physics of those times. Dobbiamo capire la fisica di quei tempi. Which is very similar to ours in many ways. In tanti modi è molto simile alla nostra. According to ancient understanding, also the Greece, the fire element was everywhere, which means heat. Quindi secondo queste conoscenze antiche, anche nell'antica Grecia, il fuoco era dappertutto nel mondo, e il calore ovviamente costituiva il mondo. Yeah. So this is the same as our physics. Everywhere there's energy, everywhere there's heat. Quindi questo equivale alla nostra fisica, no? C'è l'energia dappertutto, c'è calore. Mm. Given conditions, the fire element would come towards it and grasp it. Grasp what? Given certain conditions, the fire element moves towards them and grasps it. The conditions. Yeah, I'm going to tell them in a minute. Okay. Quindi date le condizioni, allora questo elemento fuoco in qualche si avvicina e le afferra. Adesso spiega che cosa. So if you rub two sticks together, we know that it's the friction between the two sticks which creates the heat and the fire. Allora, se prendiamo due bastoni e li sfreghiamo insieme, noi sappiamo che è la frizione tra questi due bastoncini che creerà il fuoco. Mm. But their understanding was that you were creating conditions which drew the fire element towards it. Ma la loro idea era che si stavano creando le condizioni che in qualche modo attirassero l'elemento fuoco. And fire grasps the object. E quindi è come se il fuoco afferrasse quell'oggetto. Mm. So, this is upadana, you see. Questo è upadana. The idea of grasping the object. È questa idea del afferrare l'oggetto. So now, the point of identity, this is the important, this is important. The point of identity is where the suffering begins. Quindi questo è molto importante, perché il punto dell'identità è proprio dove inizia la sofferenza. Okay. When I'm sitting here and I feel the pain. Quindi io sono seduto qui, sento il dolore. And I can feel the resistance. Sento the la resistenza, l'avversione. Or, yeah, or even the fear. Anche la paura. Mm. So long as I remain equanimous, I'm not suffering. Finché rimango equanime, non sto soffrendo. Correct. Sì? No? Sì? I expect people to nod vigorously. Sì, grazie. Aspetto che le persone facciano di sì con la testa vigorosamente. So, upadana is when I react to the pain, become the desire. Upadana è quando io reagisco al dolore, quindi io divento il desiderio. Mm. But still there is no action. Ma comunque a questo punto ancora non c'è l'azione. Ah. To reinforce the habit, I have to now empower the desire. Adesso per rinforzare questa abitudine devo potenziare il desiderio. Mm. And that's the point of bhava. E qui è il punto di bhava. So becoming. Che è il divenire. Divenire. So we have this desire, wanting, I want, I do. Quindi abbiamo questo desiderio, il volere, io voglio, io faccio. Mm. So ice cream, want, I get. Quindi sarebbe come gelato, voglio, io ottenere. Ah, sì. Questa okay. È la sintassi. Now, bhava is the point where something is taken from potential and brought into the actual. Quindi bhava è proprio quel punto in cui qualcosa da uno stato potenziale diventa uno stato effettivo, attuale. No, effettivo. Sì. What does that is the will. E cos'è che fa avvenire tutto ciò? La volontà. La volontà. So will is power. Quindi la volontà è il potere. Il potere, sì. Now, the Buddha says, Chaitana Bhikkhave Vandami Kamma. I call will Kamma. Quindi Buddha diceva che Chaitana, cioè la volontà, è il Kamma. Cioè io chiamo la volontà il Kamma. Mm. So when we mean in Buddhism, when we say an act, we mean the will has created something. Quando noi in buddismo diciamo un atto, questo un'azione, significa che la volontà ha creato qualcosa. Mm. So at that point you cannot stop the consequences. E quindi a quel punto non si possono più interrompere le conseguenze. Mm. And this is the meaning of the next line, bhava, bhava paccia jati. Sì, e questo quindi poi praticamente dà l'avvio a tutta la sequenza successiva, cioè jati. Mm. This I'm explaining this paticcasamuppada as a present life, a moment to moment experience. Quindi sto spiegando questo paticcasamuppada come se fosse in una vita. Nell'arco di una vita presente, quindi una coscienza dopo l'altra. Mm. There is the interpretation of also past lives and future lives. Eh? Perché c'è anche un'altra interpretazione che invece copre le vite passate e quelle future. Mm. But we shall leave that for another time. Per adesso però la mettiamo da parte, lasciamo per un'altra volta. So, the moment we do something, that's the birth of that action. Quindi nel momento in cui facciamo qualcosa, beh, questo corrisponde alla nascita di quell'azione. Mm. And dependent on that moment, paccia jara marana. Quindi sulla base di questo momento di nascita, diciamo, dell'azione, c'è poi jara maranam. Which is the process of the action to the very end. Che è tutto il processo di questa azione fino alla fine. So, ice cream, want, I ice cream, want, I get, eat, finish. Quindi per tornare all'esempio del gelato, gelato, voglio, io prendo, mangio, finisco. That's the cause. Now, unfortunately, remember that if we have acted on tanha, an unwholesome desire, allora sfortunatamente, cioè se noi abbiamo agito spinti da tanha, cioè da questo desiderio non salutare, this now feeds down into these unconscious, unknowing habits. Feeds down. E questo è come se venisse alimentato da questi abitudini non salutari. Mm. So it's fed by the habits. No. This action reinforces the habit. È come se questa azione quindi vada a rinforzare l'abitudine. Okay. So that's how we create suffering for ourselves. E quindi è così che noi creiamo sofferenza per noi stessi, a noi stessi. A noi stessi. So now the Buddha talks about the escape, so this is the other way around. E quindi adesso passiamo all'altra parte, cioè Buddha indica una via d'uscita. Mm. And he begins by telling us that as our delusion, our ignorance and delusion begins to lessen, the whole thing begins to collapse. Allora lui ci dice che man mano che la nostra ignoranza, la nostra illusione iniziale si cioè diminuisce, si ridimensiona, allora tutta questa concatenamento, questa struttura comincia a crollare. So there are these three characteristics that we are always investigating. Ci sono queste tre caratteristiche che noi continuamente investighiamo. And what we mean, remember, by investigating is direct experience of them. È quello che intendiamo per investigare, per averne un'esperienza diretta. Mm. So the first one is usually is this impermanence, anicca. La prima di solito è questa impermanenza, anicca. As we begin to see that everything is arising and passing away, we see that nothing is reliable. Quando cominciamo a vedere che tutto sorge e passa, cominciamo a vedere che non c'è nulla di affidabile. If nothing is reliable, why should I attach to it? Se non c'è nulla di affidabile, perché io mi ci dovrei attaccare? Why should I make it a psychological dependency? Perché dovrei farne una dipendenza psicologica. When I experience tanha, I'm experiencing the psychological dependency. Perché quando faccio esperienza di tanha, io trovo questa dipendenza psicologica. So we can see the link between anicca and dukkha. Quindi riusciamo a vedere questo collegamento tra anicca e dukkha. When we really grasp the meaning of this, when we really understand anicca, quando riusciamo veramente a capire anicca, then what the Buddha tells us, we discover or we understand that there is nothing in the world worth holding on to. Allora quello che scopriamo, secondo anche gli insegnamenti del Buddha, che non c'è nulla nel mondo che valga la pena di essere trattenuto. Mm. Now just there I always try to introduce people to spiritual reading. Just here I like to introduce people. È proprio qui che io piace introdurre alle persone la lettura spirituale. So this is taken from the Benedictine tradition. Quindi questo è preso dalla tradizione dei Benedettini. And as you're reading something, you may come across a phrase or a paragraph which strikes you. Mentre leggete potreste trovarvi a leggere una frase o un paragrafo che vi colpisce. Mm. So let us say I'm reading the discourse by the Buddha and I come across this phrase. Immaginiamo che sto leggendo un discorso del Buddha e arrivo ad una particolare frase. There is nothing in the world worth holding on to. Questa frase che dice non c'è nulla al mondo che valga la pena di trattenere. And it, you know, I go, oh, yes, see? So now I keep repeating it. Adesso continuo a ripetermela. And I repeat it in as many different inflections that I can to get the full meaning of the phrase. E quindi la ripeto con tutte le varie inflessioni per poter afferrare proprio il significato pieno di questa frase. So there is nothing in the world worth holding on to. Quindi non c'è nulla al mondo che valga la pena di trattenere. There is nothing in the world worth holding on to. Non c'è nulla nel mondo che valga la pena di essere. There is nothing in the world worth holding on to. Non c'è nulla al mondo che valga la pena di o degno di essere afferrato, trattenuto. Sì, and you keep repeating it and repeating it gently to yourself. Continuate a ripeterlo in maniera così dolce, delicata. And then you get the feeling of it being digested somewhere in the heart. E poi vi viene questa sensazione di digerirla da qualche parte nel cuore. So what was an intellectual understanding is actually beginning to affect our attitudes. Quello che era una comprensione intellettuale comincia a influenzare i nostri atteggiamenti. And this is when it begins to affect the way we behave. Ed è qui che comincia anche a influenzare il modo in cui noi ci comportiamo. This sort of reflection you find a lot in all religions, and in Buddhism there are 40 of these reflections. E questo tipo di riflessioni le trovate in tutte le religioni. E nel buddismo ce ne sono 40. One of them is metta. Uno è la metta. See? Just by gently repeating it, waiting for it to feel digested, you see, we're actually changing. Quindi semplicemente ripetendola e dandoci il tempo di in qualche modo sentirla e di digerirla, noi stiamo cambiando. It's exactly the same technique for the unwholesome habits that we've developed. Ed è la stessa tecnica che praticamente ha fatto sì che noi sviluppassimo le abitudini non salutari. The job is boring, I am depressed. The job is boring, I am depressed. The job is boring, I am depressed. Eh? Il lavoro è noioso, io sono depressa. May all the world be depressed. Che tutto il mondo possa essere depresso. Sì, it's the same technique. So è lo stesso meccanismo, la stessa tecnica. Yeah, so one we have to stop and the other one we have to practice. Quindi ce n'è una che dobbiamo interrompere e l'altra invece che dobbiamo esercitare. And the other investigation which undermines this whole pack of cards. E l'altra investigazione che in qualche modo intacca tutto questo castello di carte is anatta, not self, you see. È anatta, il non sé. And this is when we are disidentifying with our experience. E questo succede quando noi ci disidentifichiamo con la nostra esperienza. So I was saying yesterday that in those times, but within the Buddha's teaching, what we experience is being created entirely by our own bodies and minds. Quindi quello che dicevo ieri è che questi sono gli insegnamenti del Buddha. Qualunque cosa che noi stiamo sperimentando, stiamo creando, è creato dal nostro. Ogni cosa che noi sperimentiamo è creato dal nostro corpo, dalla nostra mente. Yes, of course, it's dependent on outside stimuli. Ovviamente photons. Dipende dagli stimoli esterni. But how we experience light is dependent on this body. You see? Ma per esempio, come noi speriamo la luce. Questo dipende dal nostro corpo. So if we make everything that we experience an object, we are discovering a different identity. Quindi se noi facciamo di tutto quello che noi stiamo sperimentando un oggetto, we are discovering another identity. Quindi è come se noi scoprissimo un'altra identità. So We talked about the child who pushes the world away until I am a boy, I am a girl, and everything is not me. Ricordate, abbiamo parlato del bambino che è come se spingesse fuori di sé il mondo. Allora dice: io sono un bambino, io sono una bambina, e tutto il resto è fuori di me. I'm going through the same process inwardly. E quindi seguo lo stesso processo, ma dal di dentro. So just as this room is outside, these thoughts are now outside my consciousness. Quindi è proprio come se questa stanza è fuori di me, allora anche i miei pensieri possono essere fuori dalla mia coscienza. Just as I'm in this room with the hard walls and the atmosphere, I'm within myself in the hard body and the mind. Così come sono in questa stanza con i muri e una certa atmosfera, così sono dentro il mio corpo, con il mio corpo come fossero i muri, e la mia mente. And this is what I was meaning when I was saying the Buddha was a phenomenologist. Era questo che intendevo quando dicevo che il Buddha era un fenomenologo. It's worth looking in Wikipedia. Vale la pena di cercarselo su Wikipedia. By doing so, we form a different relationship with what we're experiencing. Quindi facendo così noi creiamo una diversa relazione con ciò che stiamo sperimentando. And this relates to dukkha because we're no longer seeking happiness in the world. E questo ha un collegamento con dukkha perché noi non cercheremo più la felicità nel mondo. Tomorrow hopefully I'll have something to say about that. Domani spero di avere qualcosa da dire a questo riguardo. This really just completes the movement that we find in the Paticca-samuppada, going one way and then coming back the same way, you see, but undermining itself. E quindi questo completa quello che abbiamo detto su questa catena dell'originazione dipendente, però prima andava in una direzione, adesso va nell'altra e praticamente si srotola, cioè si distrugge, no? Destruttura. Ecco. I can only hope my words have been of some assistance. Posso solo sperare che le mie parole siano state di qualche aiuto. Again, hoping I have not added to your confusion. E di nuovo spero di non aver aggiunto alla vostra, aver aumentato la vostra confusione. But that this understanding leads to a more clear penetration of how we create problems for ourselves. Ma che invece questo insegnamento porti a una maggior chiarezza rispetto a come noi ci creiamo dei problemi. May you be free of all suffering sooner rather than later. E che voi possiate essere liberi da tutte le sofferenze prima piuttosto che poi. Salud, grazie molto tanto. So we can keep the schedule.